mi chiamassi l'audace. Stefano l'audace, sarei molto più audace. Non c'è cazzo da fare. Sì, perché è vero. Comunque le parole sono no? Ti condizionano di brutto. Ma invece faccio il cretino. L'audace. Esatto. L'audace. E anziché fare l'audace. Carino, e dunque, perché abbiamo qua tutte queste poetesse e tutta questa artista. Ci presentano un libro fantastico che è appena uscito 2 settimane fa. Esatto, 2 settimane fa, no? Forse erano anche 3 o forse 4. Che giorno è uscito questo libro? Come si chiama? Allora, devo dire che è un libro che a me mette un po' in difficoltà. Beh, Io parto dicendo questo. Sei tu la star of the show, per io cui... Ho testa, io non ho memoria. Non ti ricordi? Può darsi niente. Che sia uscito ieri, non me lo ricordo. Però è bellissimo. Volevo dire prima ai miei ascoltatori, ai nostri ascoltatori attenti, che Massiele è già stata intervistata l'anno scorso. Era l'anno scorso di questo periodo. Sì, è arrivato con una pistola piena di parole e non mi ha lasciato neanche respirare. Ciao Massiele, ha cominciato a farmi le domande che ero così senza impreparata. E con il mio scarso italiano mi ha chiesto tutta la verità e io... Ma infatti, nient'altro che la verità. Questo accento bellissimo, diciamolo, da dove vieni? De onde sos? Massiel? Tu lo parli molto argentino, io però sono colombiana. Io però sono colombiana, per cui attenta a quello che dici. Beh no, in realtà tutto il popolo latinoamericano e siamo fratelli. Ma sì, ecco, certo. Grazie mille che dici così, perché comunque io l'accento lo facevo perché l'ho imparato in Argentina, all'argentino, per cui mi viene da dirlo così. Hai capito. Colombiana, però in realtà dici che sei impreparata, ma invece hai un accento stupendo con un italiano forbitissimo. Bolognese, spero. Adesso puoi assolutamente riempire la tua pistola piena di domande e farle vendicarti finalmente con Stefano. Dicevamo, Massiele è stata la prima degli artisti del nuovo Forno del Pane, perché che io ho intervistato. Ci tenevo a intervistarla per prima perché lei era l'ultima arrivata. Ma dai, era la tredicesima, la più sfigata di tutti, che cioè, tipo gli altri erano lì da un mese, lei è arrivata studentessa dell'accademia, capito? Per cui ho pensato subito che lei fosse la più interessante di tutti quanti. Grande, infatti secondo grande. Me poi più o meno avevo ragione. Avevo totalmente ragione naturalmente. Bene. No, non volevo offendere gli altri, ma tanto li ho già offesi, per cui ormai è andata. Va bene. No, va bene, comunque... Con chi sei rimasta amica, Massiel, di tutti i nuovo forno panisti? Oddio, beh, amico una parola fortissima, però nessuno. Mi piace il lavoro di Contino Giuseppe, che penso ho visto anche te, hai intervistato. Mi piace molto, certo, anche ciò che fa Alison. Sì. Mi piacciono le fotografie di Raquel, i suoi progetti, e Francis Hoffman, con cui sono forse con loro che erano più vicini a me anche nella parte dello spazio, no? Ah certo, quindi, anche fisicamente eravate più vicini. Di residenza fatta l'anno scorso ormai, giusto? Sì, di più, se non sbaglio, 2020. Addirittura erano 2 anni fa? Sai che forse hai ragione, dovrei andare su www.coxospaziane. Esatto, subito. Sì, in realtà è finita nel 2021, perché ci siamo allungati un po', ma è iniziata prima. Ok. E durata quanto allora, sei rimasta? Doveva durare 6 mesi, ma poi il museo e il progetto si è prolungato altri 3, per cui un 8 mesi, quasi un po', certo, lunghino l'avevo fatto. Ok, perfetto. In cui andavi ogni giorno? Esatto, ogni era giorno il nostro posto di lavoro e lavoravamo lì. Sì, praticamente non c'era nessuno in giro e c'erano appunto 13 artisti. Adesso sto facendo un cerca di Massiele. Tutti e 13 per 8 mesi. Sì, è stato bellissimo. Sì, poi ce n'erano alcuni che non venivano mai, si può dire veramente. Hanno sprecato. Allora, vabbè, guarda, comunque cogliamo l'occasione per salutare tutti. Era il 26 ottobre 2020, che parlavamo un anno e mezzo fa. Madonna, infatti, incredibile. Ormai questo Covid si è portato... Sì, no, ha allungato i tempi in maniera spaventosa. Sì, è nato il calendario, non sappiamo più... Sì, non sappiamo più chi siamo e perché. Però... Arte contemporanea. oggi ci stava il jingle dell'arte contemporanea, no? Soprattutto dopo aver citato delle residenze, insomma. Infatti, a un certo punto dovevamo un attimo ricontestualizzare. E quindi avete fatto questa intervista 2 anni fa, quasi un anno e mezzo fa, e avete parlato però di un'altra opera di Massiel, sì, giusto? Sì, quello che all'epoca facendo, portavo che un'opera digitale di cui non mi appungerò adesso, ma di cui faceva la curatella Federica Patti, tutta un'amica molto carina. Siamo stati là con un'altra opera, certo, che parlava appunto di tutta la parte dei social media, che eravamo un po' sottomessi, no? Dipendenti all'epoca. Certo. Che lo siamo tuttora, ma però tu posti meno, infatti. Ci ho guardato proprio oggi al tuo Instagram e ho detto: guarda, Massiel che non sta postando tanto, perché cercavo una tua bella foto, infatti dopo poi... Me l'avresti potuto chiedere, caro. Ma no, sai com'è? In realtà ho deciso un po' di non postare, mi sono stufata di Instagram. Te sei stufata di Instagram? No, quindi io posso dire che appoggio, io non ho Instagram. Vabbè, e no, appoggio, vabbè, lei è off the social completamente, sì, cioè lei non esiste per il mondo dei social. Sono soltanto una voce radiofonica. Infatti, vedi? E che voce. E quindi avete postato di meno dopo questa campagna anti-social? Sì, è stato anche bello, se lo posso dire, perché le due ragazze che sono anche qua presenti, poetesse, le ho conosciute all'inizio un po' tramite i social, no? Ah, vedi. E dopodiché sono venute, d'accordo, e ci siamo viste personalmente, sì, ma il loro lavoro, il primo approccio l'ho avuto attraverso questo piccolo schermino. Certo, certo, certo. Su certo. Che social le trovate le poetesse? È sempre Instagram. Sempre Instagram? È sempre... Allora, noi che siamo trentenne, massimo 40, ci divertiamo lì. È da dire che i dodicenne sono TikTok e i boomer dopo i 50 si resta su Facebook. Ma come? E ma quindi c'è questa divisione, sicuramente te restai su Facebook senza... Io sto su Facebook. E poi c'è chi questo come Nadia. Mi chiedo, cosa fai su TikTok? I balletti. Ma no. Sì, è vero, anche le mie cugine sono tutte su TikTok. A fare i balletti. Assolutamente. A fare i balletti. Ci faremo TikTok, sì, per seguirlo, allora, mi sembra... Sì. Ma anche Radio Città Fugico ha TikTok. Noi sì, abbiamo certo, fatto un TikTok. Abbiamo fatto un TikTok. Sì, certo, sì, di Coxo Spaziale. Un TikTok so spaziale, dovremmo fare un TikTok, sì. Ma si possono, non so, no, chiedo a voi, ma voi non lo sapete se si possono avere più di un account su TikTok. Non so. No, infatti ho fatto una domanda così. Comunque lo posso fare ai nostri ascoltatori. Se siete dei TikToker e ci state ascoltando, ditemi sul 333 180 94 94 se si può avere più di un account su TikTok oppure no. Esatto, questa facciamo è una domanda. Una domanda. Mentre invece oggi ti faccio ascoltare un altro pezzo di Shiva Bhakta. Vai, stupendo. Il cui nuovo disco in realtà continua a dover ancora uscire, perché esce dopo domani. Per cui noi ormai l'abbiamo fatto sentire quasi tutto, capito? Questo è Half an Hour. Perché poi abbiamo saputo che verrà ospite a cantarci dal vivo. Intanto cominciamo a farvi ascoltare questo. Pensavo che dicessi che purtroppo non potevamo sentire, però quello lo diremo dopo. No, quello lo diciamo dopo. Tappatevi le orecchie e non ascoltate sto pezzo, perché in realtà non si può ancora sentire, perché esce dopo domani. italianistica, legge, sì, poi sì, stavamo ingegneria, stavamo facendo le chiacchiere, grande. No, qua ci sono tutti dei passati, dei background interessantissimi. Stavo indagando quello che le nostre poetesse invitate hanno fatto prima di arrivare, insomma, a Coxo Spaziale, esatto. Che cioè, siamo tutti da questo lato della stanza, siamo tutte non bolognesi, no? Ah, vedi. Bolognesi d'adozione. D'adozione. Comunque qualche amore ci ha portato a Bologna. Ho sentito di una poetessa che si è innamorata di un'università di ingegneria che consiglierebbe a tutti. Giusto? Esatto, sì. Sono arrivata qui che avevo in realtà 18 anni, perché ho fatto la primina, ho fatto anche quest'altra. Sì. Si può dire. Sì. No, anche io l'ho fatta e mi è piaciuta. Sì. Febbraio sei nata? Maggio in realtà. Maggio, quindi proprio non ero tenuta assolutamente. Però i genitori ti hanno spinta. Esatto, mi hanno spintonato. Ha detto guardala già come è matura, esatto. 4 anni, si allaccia le scarpe da sola, cioè proprio pronta. Scrive poesia, è pronta per Tanta il mondo pronta. E quindi poi sì, ho studiato ingegneria e così ho fatto questo. Poi in realtà ho continuato la mia, diciamo, ho iniziato la mia carriera universitaria come personale tecnico amministrativo, certo. Quindi lavoro per l'università. E parallelamente ho coltivato questo interesse, chiamiamolo così, non so nemmeno come definirla questa cosa della scrittura, perché non è propriamente un interesse, un bisogno. Sì, è una cosa, diventa anche un po' fisiologica, come naturale necessità, non so. Sì. Certo. Ed è la cosa che comunque mi dà. Ti fa vivere. Sì. Cioè ti porta. No, mi porta. Ti porta a respirare. A casa, però sicuramente l'aria che respiro. Beh, ma anche quella è vita, no? Cioè, voglio dire, non viviamo soltanto di pane e latte. No, ma poi voi poeti avete un'utilità molto, molto forte, che è quella di essere più sfigati degli artisti, esatto, visivi. Questo non è vero, non mi sembra. No? No. Sì, no. Cioè, io dico sempre che più stronzo del mondo dell'arte c'è solo il mondo della moda, ma più sfigato del mondo dell'arte c'è solo il mondo della poesia. In Italia, diciamo, certo. Che paradossalmente poi. Sì, no, infatti, perché poi voglio dire, siamo un paese di poeti e di artisti, esatto, e poeti e artisti sono i più bistrattati in assoluto. Ma la poesia è contraddizione, per cui. Certo. Qua ogni frase si snocciola un orizzonte, no, infatti, poetico. Infatti io vi proporrei di leggere un paio di poesie subito, se secchi, se, se, così, se. Cosa ne del dici, Massiel? No, assolutamente anche tu, sì, io inizio, no, io. Inizia tu. No. No, allora, io lascio le ragazze leggere il loro... una loro poesia. Io magari libro vi leggo. Che possiamo ricordare, che ci sta ascoltando adesso su Coxo Spaziale. Misteri lussuriosi. Case editrice. Anche, ricognizioni. Allora, dice ricognizioni, vorrei anche citare altri due autori che hanno, perché noi siamo stati in quattro, certo, che siamo stati chiamati a conoscere Maziel e a dare un contributo, insomma, certo, a lavorare con lei su quest'opera, intorno alla sua opera, e sono Virginia Pedani e Jonathan Rizzo, che salutiamo se Bologna, ci stanno ascoltando, ecco, quindi altrimenti, esatto, sarebbero stati qui anche loro. No, ma Jonathan Rizzo comunque non lo volevo. No, Jonathan, non ti preoccupare, ti avrei invitato anch'io, cioè che non ti conosco, sì, no, giusto per averli tutti e quattro, no, e ma dare una difesa. Però per Jonathan Rizzo ci voleva una puntata unica. Perché lui si è preso il palco ad adiacenze e non smetteva più, per cui ho detto no, lui non lo voglio. Ad adiacenze, è simpatico, perché avete non fatto dico l'opening mica, però molto teatrale, devo dire. Sì, ma la sua maniera di leggere ci è sta. Così. È così. Perché c'è stato l'opening ad adiacenze. Sì, c'è stata la presentazione ad adiacenze con anche Enrico Fornaroli, che ti ha scritto la prefazione, esatto, giusto? Esatto, ringrazio sia Enrico, che è un grande amico, e quando anche in chiacchiere chiedevo lui. Gli amici di adiacenze, questo... fra l'altro, sono... Ringrazio anche Amerigo, appunto. Sono in questo momento, sono in... dove cavolo sono? Là, a Bergen, che è in Norvegia. Sono in Norvegia. Sì. Adesso la settimana prossima, se non vado errato, dovremmo riuscire a sentire che cosa stanno facendo. Grandissimi. E quindi questo... Chi comincia? Comincia l'audace, certo. L'audace. Chi può cominciare? Che come quelli cani di cognome iniziavano con l'A, che erano gli sfigati, l'appello, esatto, e le interrogazioni succavano tutte loro, io invece l'audace sempre per prima. Infatti. La metà. Esatto. Vai. Allora leggo questa... mi scuso testo per la musica di sottofondo, ma va tipo in automatico, adesso magari ne trovo una più bella, vai. Ecco forse questo testo che apre la raccolta. una tregua momentanea dalle stelle. C'è anche un cagnolino nero sopra il letto. Lo svuotamento della memoria. Un indizio di pace. Il tuo nome si chiude tra le mie gambe, resta dentro come un sigillo. Il mio corpo e il tuo corpo e il mio corpo. Applaudo io? Applaudi. Non, non sapevo se voleva partire, perché c'è stato un gioco di sguardi, non sapevo se voleva partire direttamente. Ma passo io, ne leggo un altro? Sì. Vai. Quindi ci alterniamo un po' così. Un po' così. Va bene. Non troppo vicino, grazie. Non troppo vicino. Così va per bene così. Per perché io ho questo di tono, voce di questa voce molto bassa, quindi io distinto mi avvicino al microfono perché do per scontato che nessuno mi senta mai. Vai. Non puoi parlare. Non puoi toccarmi. Ma se mi pensi da un luogo lontanissimo, per lo strazio caldo della mia carne, ho tutto il tuo fiato dentro di me. Bellissimo. Bella, sì. Molto bella anche questa. No, ma infatti volevo, adesso poi volevo capire, tu, cioè, tutto sto libro, Massiel, come ti è, cioè, come ti è venuto in mente di costruire, di chiedere a loro? Allora, vi racconto. Mi è venuta l'idea di vedendo San Sebastiano, per primo. Mm-hmm. Mi è venuta, eravamo in lockdown, guarda a caso, che immagine così erotica. Mm. E quindi ho detto, secondo me, ho cominciato poi a fare un archivio e tutti i misteri della Chiesa Cattolica, ho detto, sono tutte immagini erotissime. Quindi mi è venuta la voglia di togliere i vestiti, quindi spogliarli, e ho cominciato a farlo attraverso un software, quindi a disegnarli. E li ho disegnati e mi sembrava sempre ancora di più sadomasochisti. E quindi ho detto, questa cosa è bellissima, perché c'è un'immagine sacra che, certo, parla del corpo, e invece qua lo stiamo spogliando. Poi c'era Alessandro Mescoli, che è venuto e mi ha chiesto, ma guarda, se facciamo un libricino, mm-hmm, con una pubblicazione con tutti questi tuoi disegni, e magari ti mettiamo in contatto con altri poetessi, un poeta italiano, che facciano dei poemi apposta, proprio inediti per questi disegni. Quindi ho incontrato le ragazze, abbiamo parlato, perché anche loro si aspettavano, io sono un po' multidisciplinare, per cui le mie opere a volte distano e sembrano fatte da molte persone diverse, quindi loro si aspettavano magari un'immagine dei miei acquarelli, sì, certo, o dei volti, delle cose che io faccio di solito, che sono magari più famose, per, mm-hmm, così dire. Quando lì ho sottoposto questa immagine, loro si sono viste un po' anche nell'angoscia bella di dover, esatto, di voler, certo, dover creare qualcosa di che partisse da loro, no? La loro natura anche, mm-hmm, come persone, e come natura poetica dei loro scritti, che però avessi un legame con questa mia immagine molto erotica. E quindi nascono così, insomma. Tra cui anche l'amore che io nutro anche per la poesia, venendo dalla Colombia, un legame fortissimo con i miei poeti, Julio Flores, vabbè, tra altri, e italiani invece, tipo Caproni, o la pazzesca di Valduga, che io amo e che, si conosco un giorno, le bacerò le mani, quello che lei mi chieda, io sarò la sua schiava. E quindi, insomma, era un po' questo gioco, io volevo qualcosa di molto simile, e loro sono riuscite anche a creare di queste poesie piccole, perché sono verso gli ultimi, ma sono 4-5 versi, mm-hmm, non di più, certo, come lo fa anche la Valduga, come l'idea che avevo io di questo racconto erotico che riassumo un'idea, no? E poi la espone in poche parole. Fra l'altro faccio lo show e niente, dedico, che ho due amori a Bologna, uno è mia moglie, che è Maria Grazia, e un altro è la mia musa, che salutiamo entrambi. E questo è un poema, ce l'ho qua dietro il mio telefono, della Valduga. Dai, che leggo io e poi lascio. Mi sta ondeggiando fin dentro il cervello, e sempre più si assoda, più si ingrossa, sempre più mi riempie, e non è bello? Hai un vigore da incidere le ossa. Questo lo dedico alla mia musa. Fantastico, bello, grazie. Bellissimo. Poi le poesie dedicate lasciano sempre lasciano sempre qualcosa, no? Spettacolo rivelazione, clienti soddisfatti. Il vincitore di numerosi... Salve a tutti, sono Pino Boresta e sto ascoltando Coxo Spaziale. E grande Pino Boresta che ascolta Coxo Spaziale. E ti prego, voglio dire un'assenza di oggi. Marco Roma, è vero. Aspetta, prego, possiamo dedicare un saluto a Marco Roma. Aspetta. Se ci stai ascoltando, vorrei chiederti cosa ti è successo questo weekend. Te lo dico io cosa gli è successo. Senti un po'. Forse. Ecco. Buongiorno. Oh, è bassissimo. Ogni volta che parlo con te, mi sembra chiaro. Immaginarti che sono sincero, sono sempre più vero, è dimostrarti che la mia realtà e lealtà è fatta così. Io sono Marco Roma. Buongiorno! E buongiorno. Continua, però questo era del primo aprile, per cui Marco, io vorrei sapere se lui ci manca. Esatto, ci manchi Marco, no, ci è mancato il tuo messaggio di oggi, facci sapere se stai bene, se tutto a posto, insomma. Appunto, comunque sei famoso nella nostra trasmissione, quindi vorremmo sapere di te. Sei il nostro ascoltatore, no, il nostro cantante preferito. Esatto. Cantore. Non abbiamo detto niente del libro Misteri Lussuriosi. Misteri Lussuriosi, no, in realtà un po' abbiamo detto, però volevo dire, questi disegni erotici sono abbastanza imponenti in questo libro, o sbaglio? Hai ragione, cioè prendono molto. Allora, sono due dettagli che possiamo parlare. Per esempio, ho lavorato con una linea molto sottile per gli ascoltatori che ci sentono. Possono acquistare, se vogliono, la Diacenza con Amerigo. Ah, dai. Ci sono lì, altrimenti con da Diacenza, chi ha pubblicato, che è duplicamente una bottega digitale, un editore. Certo. E quindi certo. Con loro. I disegni sono con una linea molto sottili, che sembrano fatti con inchiostro, e provano a rendere o a tornare questa delicatezza, no? Certo. Del corpo o della linea nel corpo, appunto, per creare ciò che poi diventa pesante, che è già la sessualità, che però non è pesante in realtà, ragazzi, ragazze, e siamo noi, no? Quello che ci rende umani è l'erotismo, è qualcosa di innato, e appunto è stato anche il mio occhio innato a fare questo sguardo su le antiche opere, soprattutto cavalleresche, ci sono in tutto opere. C'è anche il compianto di Niccolò e l'Arca, che a Bologna è così importante, che troviamo una scultura. Io ho fatto delle fotografie per poi ricrearle in disegno, no? E quindi c'è questa immagine sacra che viene qua sacralizzata da un'altra maniera. Dissacrata quasi. No, è un altro sacro, perché la sensualità e la comunque sensualità non, è non sembra è molto morto questo Cristo. Non è assolutamente morto. Anzi, è vivissimo. Secondo me. Sai perché è capitato? Perché se voi andate là alla chiesa e guardate il compianto, questo Cristo, lo sguardo che ha, che sarebbe tipo l'ultimo respiro, con la bocca mezzo aperta, socchiusa, sembra di piacere. Quando io mi sono fermata a guardarlo, non è che sia io che vedo sesso ovunque, che un po' è vero, ma non è quello. Okay. E infatti, un po' devo dire che aprendo questo libro, un pochino l'idea ti viene da pensare, no? E però, se poi vedete altre opere. No, ma io ho tantissime domande, infatti, su questa cosa dell'eros, dell'erotismo, del sacro o del dissacrante, che secondo me è molto interessante. Cioè, fondamentalmente, tu, riprendendo queste immagini che appartengono a un registro del religioso, quindi di quello che è una tradizione iconografica del sacro, le hai spogliate in due sensi, no? Le hai spogliate visivamente dei vestiti di questi soggetti, di questi diciamo protagonisti di una storia religiosa, cattolica, e giusto per andare un attimo a guardare il punto di vista in cui si può collocare l'inizio di questo lavoro, di questo processo, e poi li hai spogliati anche di un loro senso, no? Allora, allora. E la mia domanda che volevo porti era questa, perché poi il corpo, no, è veramente un tema molto centrale nella religione e in quello che è il discorso sacro. Ti faccio un esempio estremamente banale. Il corpo viene considerato come qualcosa da nascondere dalla Chiesa odierna, come qualcosa di appunto erotizzato, e questo eros, di cui poi si può parlare in infinite modalità, questo eros viene visto come qualcosa di negativo, no? Con un'accezione peccaminosa o un'accezione comunque... E però viene anche spogliato, perché quante volte vediamo dei corpi nudi nella tradizione religiosa, no? Quante nudità. Quindi questo nudo e il significato erotico di questo nudo è qualcosa che direzione prende, no? Anche nella lettura semantica di un'immagine, di un dipinto, di una scultura, può prendere tantissime direzioni. E quindi nel tuo tentativo di spogliare e rivestire poi tutto quello che è una narrazione fatta di silenzi, attrazioni, desideri non detti, come anche enunciato dalle due potesse ospiti e dagli altri due autori. E in che modo l'hai un po', in che modo ti sei relazionata? Cioè, qual è stato proprio il tuo sguardo, anche proprio personale, della tua opera, eccetera, eccetera? Allora, questa domanda è bellissima, perché allora si parte con una frase di Paul, che è: il corpo nasce nudo e l'altro è travestimento. E quindi quando tu parli che il corpo è questa morbosità, no, che la Chiesa vuole nascondere e che è peccaminosa, quindi appartiene a un peccato, è stato bello perché il mio sguardo veramente è stato l'approccio con un'immagine sacra che però io ho visto dal primo momento erotica. Però poi, parlando per esempio, certo, con Eva Laudace, che è qua al mio fianco, lei mi diceva, e anche Valentina, se tu li spogli loro perdono quell'identità, no? Appunto, parlando del travestimento, che è una cosa, certo, che io parlo molto, il travestirsi, il transito nella mia opera, insomma. E loro, cioè, loro dicevano che l'identità apparteneva a questi abiti, che spogliandoli magari smetteva di fare o di essere Gesù, smetteva di essere Santo Tommaso. Per me non è così, per me continua ad esserlo, perché è ovvio, palesemente ovvio, che se io vedo, e in questo caso non so, la incredulità di Santo Tommaso è lui, anche, certo, se è diverso, anche se è vestito, no, che Santa Caterina, anche se non è vestita, è lei, certo, però è bellissimo anche lo sguardo altrui, quindi le ragazze, in cui dicevano no, per me non è più Santa Caterina, perché gli manca quella cosa che la rende anche sacra, no, che deve, certo, stare coperta, certo, e quindi il mio sguardo in risposta alla tua domanda è stato quello, invece, certo, di continuare a vedere la sacralità, che per me è ancora più sacro che la nudità del corpo. Certo. Perché se vediamo, tipo la Chiesa, quando, non so, volevano umiliare, quello che facevano era mettere nudi i ladri e coloro che dovevano appedrare, era il spogliare, no? Quindi, certo, tu non appartieni più a noi perché ormai ti abbiamo visto. Certo. Invece questo sguardo completo per me è la bellezza. Certo, o anche basta pensare alla Venere di Botticelli, che si vede nella sua nudità, lo guardiamo con un altro sguardo, un altro assolutamente sguardo, non... Sì, assolutamente. Perché vogliamo parlare, in realtà qua ho messo un po' il piccante, tu mi chiedevi all'inizio, certo, fuori onda degli oggetti che magari, esatto, avevo aggiunto, no? Sì. E quindi, perché in questi disegni, a chi ci sta ascoltando, possiamo dire che vediamo dei corpi presi da una tradizione sacra senza vestiti, ma comunque con degli oggetti che sembrerebbero, contestualizzati in questo senso, estremamente erotici anche. Assolutamente, sono... La posizione è rimasta quale, quindi dell'opera che ho preso, dell'originale, del corpo è quella lì, però in alcuni ho aggiunto, per mettere più piccante, se vogliamo dire, degli oggetti sadomasochisti, no? Certo. E quindi del potere dallo schiavo, lo slave, il padrone, questo argomento, che è anche parallelo all'idea, certo, di chi è lo schiavo e chi è il padrone nella Chiesa. Certo, però certo, questo, certo, è un altro argomento. Ma anche gli elementi di tortura, quando si vanno a vedere nei musei, appunto, sono vero, delle cose che sembrano di piacere, invece delle cose, sì, assolutamente, di un museo, diciamo, che racconta una storia anche della perversione, o o dell'erotismo umano. Esatto. E infatti io non capirei, guardando le immagini, quali oggetti sono aggiunti, aggiunti o no. Potrebbero essere degli oggetti medievali. Beh. Avete presente quelli tipo delle torture medievali? Sì, sì. Che sono, appunto, sono martiri, devo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando, tipo Sant'Andrea, per mettere l'esempio. È una delle opere in cui non ho aggiunto assolutamente niente, però poi vedete Sant'Andrea che è in una croce, quindi cavalieresco, certo, in questo caso, e cioè con tutti gli attacchi in mani, piedi, e il piccolo aggiunto, piccolo, mi scuso, è stata che si è aggiunto, sì, è una gabbia per il pene, quindi okay, è una gabbia che è un oggetto che si utilizza nel sadomaso, certo, e che l'uomo indossa come castità. Quindi si, certo, parla anche di un'altra parola, la castità, anche durante l'idea di... Cos'è la castità? Cioè l'idea, certo, di essere puro nella Chiesa, no? Certo. Quello che portavano alcuni uomini, donne, l'idea di arrivare così casto al matrimonio. Certo. La castità visualizzata in maniera fisica, ma la castità anche mentale, l'essere, certo, puro. Certo, e che poi mi suggeriscono queste immagini, quando le ho viste, non so se è uno sguardo... non lo so, così vedendolo mi sono resa conto di quanto, per esempio, il fallo maschile sia molto meno presente nelle immagini del sacre, mentre invece, certo, un capezzolo, un seno, cioè solito, visti, sì, rivisti proprio in tutte le salse, no? Sì, e anche invece... perché poi in realtà c'erano e poi sono stati coperti, no? Sì, esatto, anche, sì, anche se non sbaglio, anche nella Cappella Sistina. Per non parlare di tutte le amputazioni, li hanno coperti, sì, con le foglie di fico, ma tipo, sì, 100-200 anni dopo. Ah, ma dai, sì, non, sì, lo sapevo, mm-hmm, non lo sapevo. Detto questo, io vi devo menzionare, castrare. Mi devo castrare. Giusto per rimanere sul tema. Devo castrare perché c'è questo. L'angolo della menzione. Mi sa che c'è un cellulare che fa friggere tutto quanto da qualche parte. E, in realtà è più corta di quanto doveva essere, perché mi è arrivato il messaggio, anzi mando un abbraccio a Federica Pornetti che ha dovuto cancellare il suo evento di domani. Grazie, a DAS. Perché ha preso il Covid. Vabbè, succede, per cui così. E invece giovedì abbiamo giovedì 7 alle ore 18 da Alchemilla abbiamo Voce a Vento, un libro d'artista più vinile di Claudia Losi e Meike Clarelli. Voce a Vento, Kunstverein, è un libro d'artista più vinile uscito nel 2021 che contiene il risultato della prima collaborazione tra Claudia Losi e Meike Clarelli. I testi di Losi sono stati musicati e diretti da Clarelli e cantati da una trentina di donne su un sentiero del Monte Bulgheria del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nel 2018. L'incontro è organizzato da Info Modo Shop e si terrà presso Alchemilla in via Santo Stefano 43. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti e trovate tutto su www.modoinfoshop.com. Vai tu. Vado io con il 7 aprile 2022 alle ore 20, Cinema Doppio Segreto, capitolo 3, Feticci. Yeah. L'appartamento in via, questo sarà nel luogo L'Appartamento. No, in realtà no. L'Appartamento mi sa che è il film che andremo, ecco, che sarà proiettato. Perfetto, in via Miramonte, scusatemi la gaffa. No, 4, anzi, sì, perché in realtà l'ho scritto male io. Via Miramonte 4-6 perché il posto si chiama Maison 23. Ecco, Maria Rosa Ramon. Esatto, vedi, la Maria Rosa, che salutiamo. Salutiamo anche colombiana, un po' lei. Ah, vedi. Cinema Doppio Segreto è un programma cinematografico intimo e imprevedibile dove la scelta del film è parte del gioco. Dalla pesca schiacciata di Call Me By Your Name alle fantasie floreali indossate dalla protagonista di In the Mood for Love, la storia del cinema è ricca di oggetti feticcio, esseri inanimati su cui si concentrano aspettative, emozioni e desideri. A guidare la programmazione della serata saranno proprio due oggetti, ciascuno collegato a un film. Per info e prenotazioni scrivere a prenotazioni@maison22.it. L'avevo chiamata 23 se non sbaglio, non mi ricordo mai niente naturalmente. Invece dall'8 aprile inaugura, cioè no, apre l'8 aprile dalle ore 15 e sta su fino al 4 settembre 2022 a Palazzo Albergati la mostra Fotos, i capolavori della collezione di Julian Castiglia. Alfred Stieglitz, Man Ray, Henri Cartier-Bresson, Vivian Maier, Robert Capa, André Querez, Alberto Corda e Robert Duaneau, nonché fotografi spagnoli come Carlos Sauram, Ramon Masats, Oriol Maspont, un sacco di gente che non ho mai sentito dire, e molti altri sono i protagonisti indiscussi con i loro memorabili scatti entrati ormai nell'immaginario collettivo come fermo immagine del secolo scorso di un viaggio imperdibile nella storia della fotografia, un accostamento di oltre 70 opere di grandi maestri spagnoli e internazionali che rendono l'esposizione bolognese unica al mondo, da una delle collezioni private più importanti d'Europa, appartenente a Julian Castiglia. Questo è a Palazzo Albergati, e sempre a Palazzo Albergati stesso giorno apre la mostra Oliviero Toscani, 80 anni da situazionista. In omaggio agli anni 80, agli 80 anni appena compiuti del più grande fotografo e comunicatore italiano, Artemisi e la città di Bologna gli dedicano un'esposizione che comprende tutti i suoi scatti più famosi, 100 fotografie per raccontare la carriera di Toscani, che con il suo sguardo geniale e provocatorio ha influenzato i costumi di diverse generazioni e fatto discutere il mondo su temi scottanti come il razzismo, la pena di morte, l'AIDS e la guerra. Entrambe le mostre aprono l'8 aprile e sono su fino al 4 settembre, e il sito è www.palazzoalbergati.com. E chiudo con sabato 9 aprile 2022 dalle 15 alle 20 Filippo De Piscis, Di semplicità e di brivido. Di semplicità e di brivido consiste in un dialogo suggerito in modo non dogmatico e non filologico tra circa 25 opere di uno dei pittori più importanti del Novecento italiano, appunto Filippo De Piscis, nato a Ferrara 1896 e morto a Milano nel 1956, e i lavori di 7 pittori internazionali. Adesso io farò delle pronunce un po', perdonatemi. Vai, Richard Aldrich. Va bene lo stesso. Hampton, 1965. Ah no, pure le date di nascita. E tu me le metti, io leggo tutto, Stefano. Io faccio copia e incolla, sai com'è. Ah ok, ah vedi, io pensavo che invece, va bene. Allora, Michael Berryhill. Luca Bertolo. Marilyn James. Paul Hosley. Ah, questo non lo so neanche io. Mairead O'Hica, presumo, però bellissimo. Irlandese, difficilissimo. E un altro, Mike Shorel. Invitati a fare da contrappunto ai dipinti di De Piscis e a stabilire un confronto in grado di evidenziare alcuni aspetti di profonda attualità nel suo lavoro, meno illuminato e conosciuto, quello appartenente al periodo che va dagli anni 40 alla sua scomparsa nel 1956. Da una collaborazione con Davide Ferri alla P420 in Piazza Gardino 9, Bologna. Olè, abbiamo finito, ma sta finendo anche il tempo, cioè sono già i 54, è spaventoso, infatti sta cosa di fare la radio, che il tempo in radio vola, per cui un'ora passa in un quarto d'ora, questo è vero, racconto sempre. E c'è giusto il tempo di ascoltare altre due poesie, sì, perché visto che è qua, bisogna. Volevo dire una cosa interessante prima di farti leggere una poesia, che consiglio chi comprerà il libro che trova ad adiacenze, mm-hmm. Lo sguardo dell'uomo è veramente differente. Non dirò in che cosa, ma ho letto alcune poesie dell'uomo ed è veramente differente, per cui carino da leggere. Adesso lo vedo chiaramente. Non era vero il cielo aperto nella mia stanza. Vestirsi di fiori non erano veri i voli, eppure sembrava. Era la notte nera in cui mi portavi, tra le maschere dei morti incanti, dolcezze primitive. Qualcuno mi dica perché vanno ancora le sue mani dietro il mio cuore, con un coltello. Una miccia accesa, scintilla vivida nella sera, divampa sulla bocca, sapore proibito di stelle, mentre mi abbracciano i tuoi nervi stanchi e si fa nuda una tenera disperazione. Adesso posso applaudire? Sì, applaudiamo, applaudiamo. No, siccome l'atmosfera era bella, non ho voluto interrompere tra tra Eva e Valentina. Ma hanno dei titoli queste non avete letto i titoli, vero? Le mie no, ma alcune hanno titoli. Diciamo che abbiamo poi lavorato insieme nella nell'indice ci sono anche nel creare, okay, nell'avvicinare i nostri testi e confonderli anche un po' con l'opera di Massiel, per cui abbiamo cercato di creare un corpo unico, per cui sì, non magari ci sono dei titoli o no, o comunque sicuramente non si evince chi è l'autore fino a che magari lo vai a cercare nell'indice, così anche perché per non spezzare, ecco, magari il flusso, certo, poetico che si è creato tra le parole e anche il tratto, che poi in realtà è veramente molto delicato, nonostante le immagini siano fortissime. Esatto. Però ma infatti in realtà questo è un libro d'artista vecchio, certo, stile, quelli che facevano no, i surrealisti, sì, negli anni 20, cioè 100 anni fa, certo, proprio la modalità si ritorna, è tutto un cerchio, infatti. No, complimenti, veramente un bellissimo oggetto, sì, si può chiamare un oggetto. Sì, sì, sono 70, sì, coppie, per cui è un'opera. Assolutamente. Esatto. Firmata e numerata. Firmata e numerata da chi? Da me. è a tutti gli effetti un libro d'artista. Sì. Fantastico. Tra l'altro, se posso assolutamente aggiungere una cosa anche molto bella, che come diceva Eva, che si vede nel flusso della lettura, il fatto che si vede anche come sia proprio precipua e caratteristica la sensibilità di ognuno nell'interpretare poi lo stesso concetto di amore e sofferenza, che già di per sé è mastodontico, quindi è enorme, ha tante sfaccettature e si colloca sicuramente anche nella lezione dei più grandi, come era stato anche un Pasolini, per dire, nello spogliare, nell'andare a nudo della pulsione e quant'altro, o qualcuno magari ancora più recente, anche semplicemente Milo Manara, quando, certo, traspone un personaggio storico, una figura in un'altra dimensione e la mantiene nella sua identità, come diceva Massiel, però la legge anche in un'altra figura, come dicevamo noi. Certo. Quindi tutte queste sfumature in realtà poi si vede come sono percepite singolarmente da ognuno e trasposte, quindi è come se aprendo questo libro si vedano tanti occhi, tanti sguardi, certo, e poi alla fine li riconduci alla persona e alla sensibilità di ognuno. Certo. Eravamo anche abbastanza preoccupate di approcciarci a un lavoro così forte, poi è chiaro che ognuno l'ha fatto con la anche col proprio credo, per tornare al discorso che ha fatto. Ah, non l'avete fatto solo per soldi? No. Soldi in poesia è veramente molto difficile. Anche in arte, il discorso che dicevamo prima. In poesia solo l'amore, non i soldi. Così, scusate, ho rovinato tutto con questa battutaccia, ma ahimè il tempo è finito davvero, per cui vi dobbiamo salutare. Io ringrazio tantissimo Valentina De Muro, Eva Laudace, naturalmente Massiel Lessa, che grazie, sono state qui con grazie noi. Grazie mille. Naturalmente grazie il libro... La voce femminile di questo assolutamente, cozzo. Di questo coxo. Grande. E niente, appuntamento tutti da Diacenze per comprare le ultime poche copie. Anche i disegni ci sono, le stampe da Diacenze, sì, per cui okay. Fantastico. Trovate San Sebastiano e Santa Maria. Mentre invece se noi vogliamo leggervi al di fuori di questo libro, dove vi troviamo? Ci sono le pubblicazioni, o comunque ci si può seguire sui vari social. Ecco, non abbiamo TikTok per il momento, per il resto stasera lo faremo, abbiamo però detto stasera probabilmente faremo questo, però sì, ci si può trovare, o comunque ci sono già alcune pubblicazioni, se uno vuole in libreria cercarci può farlo. Ok, bene, stupendo, grazie mille, fantastico, ragazze. Grazie mille per essere venute, grazie a voi, e poi grazie. Malgrado tutto, continuiamo con la voce del nostro direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Ah, la sigla fa l'altro. Sono le fantastiche LAX's che tu devi conoscere. Once there was a girl that I knew, she was only halfway into me. Her boyfriend